Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a giugno del 1850. Torino approva le leggi per la separazione tra Stato e Chiesa, ira di Pio IX. Il Papa rientra a Roma festeggiato dalla folla, ma appaiono scritte contro i preti sui muri. Il telegrafo sott'acqua, primo cavo per comunicare tra Francia e Regno Unito. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Altissima tensione tra la Santa Sede e Torino dopo l'approvazione di leggi che di fatto aboliscono i privilegi ecclesiastici. È stato un voto a larga maggioranza accompagnato anche dal sì di molti parlamentari cattolici liberali, ma nel mondo cattolico la spaccatura è evidente, lo scontro a Torino è accesissimo, al punto che l'arcivescovo Fransoni, che ha invitato alla disobbedienza, è stato arrestato. La decisione del governo guidato da Massimo D'Azeglio di proseguire sulla strada della separazione tra Stato e Chiesa ha così compiuto un passo fondamentale dopo la legge Simeo, che ha stabilito la non discriminazione dei cittadini in ragione del culto. Le due leggi presentate dal guardiasigilli Siccardi hanno abolito tre grandi privilegi del clero: il foro ecclesiastico, cioè la sottrazione alla giustizia laica degli uomini di chiesa, il diritto di asilo, cioè l'impunità giuridica per chi si rifugia in un luogo sacro, e la mano morta, cioè l'inalienabilità dei possedimenti ecclesiastici e quindi la loro esenzione da ogni tassazione. Inoltre le leggi hanno disposto il divieto per gli enti morali, compresi chiese ed enti ecclesiastici, di acquisire la proprietà di immobili senza l'autorizzazione del governo. I cattolici intransigenti stanno promuovendo una strenua resistenza e l'arcivescovo di Torino, Luigi Fransoni, è stato processato e condannato a un mese di carcere dopo aver invitato il clero a disobbedire ai provvedimenti. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Pio IX ha reagito in maniera durissima, invitando vescovi e arcivescovi alla disobbedienza e di fatto a seguire l'esempio di Fransoni. Il Papa è rientrato a Roma accolto da una folla festante il 12 di aprile. Ci ha messo un'ora ad arrivare in carrozza da San Giovanni a San Pietro, tanta era la gente, ma tante anche le voci discordi. Su alcuni muri sono apparse scritte che dicevano: preti, il sangue dei martiri grida vendetta. In chiusura andiamo tra Francia e Gran Bretagna, perché dovrebbero essere ultimati a giorni i lavori per la collocazione del primo cavo telegrafico sottomarino. Passerà sul fondale della Manica e collegherà Calais a Dover. Ad eseguire le operazioni la Anglo-French Telegraph Company. Si tratta di un cavo di rame avvolto nella gomma della pianta di guttaperca. L'anno prossimo dovrebbe essere sostituito con uno più solido e meglio protetto. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate sul nostro sito www.radio24.it e scaricate il nostro quotidiano con immagini e notizie. Visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.